Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Bene, ci siamo, sono le 21.40 in questo preciso istante. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che ovviamente nella sua trasmissione del giovedì sera non poteva mancare, ovviamente, anche se è agosto, siamo accaldati, abbiamo tanta voglia di fare ancora vacanza, ma comunque questa è invece la nostra presenza, ci vuole, perché vogliamo regalare sempre comunque emozioni e soprattutto musica, ma tanta musica, e farvi conoscere specialmente gli emergenti. E il mio più cordiale buonasera non è solitario, ma c'è anche il mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Sì, buonasera Agostino. Sì, sono qua anche oggi, che è giovedì praticamente. Sì, facciamo un happening. Cioè, fai un happening. Io sono una piccola parte dell'happening. Allora, come si comporterà questa serata? Nient'altro che di musica. Ovviamente la dividerò in due parti. La prima parte la voglio dedicare alla presentazione di un artista, un musicista bravissimo. E poi la seconda parte invece ascolteremo soprattutto musica estrapolata ovviamente da CD, insomma dai dischi. Ma allora, prima di tutto io direi di passare subito alla presentazione di questo artista, che è un carissimo amico, ci sta ascoltando, o meglio sta sentendo qualcosa tramite telefono da una bellissima città. Beh, intanto lo presento. Ciao Giuseppe. Ciao Agostino, ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, bene, tutto ok. Tutto. Sappiate che mi batte il cuore come se fosse la prima volta. Sì. Agostino mi conosce, quindi sa che io sono un po' abituato ai palchi, ma non alle radio. Quindi essere intervistati da voi, da una grande radio, per me è un'emozione. Grazie, grazie per la possibilità che mi date. Grazie Agostino. Allora, grazie a te Giuseppe Di Giovanni per aver accettato l'invito, soprattutto per essere qui presente, anche se solo telefonicamente. Allora, chi è Giuseppe Di Giovanni? Prima di tutto è un caro amico, poi adesso facciamo dire a lui chi è. Io però prima di farlo parlare lo faccio pubblicamente in modo che sentano tutto il mondo, perché siamo in streaming audio. Volevo ringraziarlo veramente di cuore dell'accoglienza che mi ha riservato in quei giorni che sono stato giù in Sicilia. Ma grazie a te Agostino, per me è stato un piacere. La cosa bella è che internet ci dà questa possibilità di trovare grandi amici, e tu sei stato un grande amico per me. Cioè, io già appena ti ho visto, appena ti ho sentito parlare, per me già era come se ti conoscessi chissà da quanto tempo, e poi me l'hai dimostrato qui di presenza. Sono veramente onorato di conoscerti e di, diciamo, di averti come amico. Grazie a te Agostino. Io sono veramente onorato e ricambio tutte le parole che tu sai. Allora, parliamo di te e poi parliamo delle altre emozioni che abbiamo vissuto insieme. Giuseppe Di Giovanni, è uscito questo disco e si intitola È la vita. È la vita, già il nome dice tutto. Cioè, la vita già è, diciamo, il sinonimo di ciò che ti accade durante la giornata. Difatti nei 9 brani che ci sono racchiusi nel CD ci sono 9 generi diversi e 9 storie diverse, anche se alcune musicate, alcune cantate, diciamo, racchiudono un po' la mia vita, le mie esperienze, le mie emozioni. È quello che gradirei e mi piacerebbe che tutto il mondo lo ascoltasse. Speriamo, speriamo bene. Giuseppe Di Giovanni comunque è un violinista, ha studiato al Conservatorio di Palermo, si è diplomato e poi ha fatto diversi stage, corsi di perfezionamento, e alla fine, dopo aver scritto... Pronto? Ci sei? Ci sono. Mi senti? Sì, sì, adesso sì. Dopo tanto tempo ha deciso di creare un CD tutto suo, con la collaborazione di grandi strumentisti e della bellissima voce di Mirella Regina, che conosci benissimo. Certo che la conosco benissimo, ma ne parleremo magari più avanti. Io adesso voglio parlare di te, insomma. Quanta fatica ti è costato a fare questo disco? Visto che ho fatto tutto da solo, io sono il produttore, l'esecutore, lo scrittore... Quant'altro, mi è costato parecchio, però ce l'ho fatta. L'importante è farcela, l'importante è avere un prodotto, aver seminato bene. Ora spero che il pubblico gradisca. E grazie a voi, alle radio, che insomma mi date voce in paesi lontani. Speriamo bene, speriamo bene. Grazie a te. Giuseppe, il violino è al centro del tuo discorso sonoro, del tuo discorso musicale. Sì, perché sì. Giuseppe, il violino? Perché il violino, diciamo, principale, è l'anima, è quello, diciamo, che mi sento più vicino, che più mi rappresenta, dove io trasferisco tutte le emozioni, tutto ciò che vivo giornalmente lo trasferisco attraverso la musica, e credo che con questo CD di esserci un po' riuscito. Sì, sì, decisamente. Hai studiato anche jazz, tu sì, praticamente. Sì, ho studiato jazz, un po' di tutto, anche con grandi artisti. Ho fatto uno stage con Stefano Bollani, Mirko Guerrini, certo. E insomma ho avuto a fianco personaggi importanti dello spettacolo. Quindi questo CD possiamo dire che è lo specchio di le tue diverse componenti musicali. Sì, ciò che mi rappresenta, cioè, è tutte le esperienze, diciamo, passate e presente anche. Giuseppe, ti posso chiedere una cortesia? Sì, dimmi tutto. Riesci a stare fermo in un punto? Perché vai e vieni a volte come linea. No, sono fermo. Sono fermo. Allora è la sala linea che va e viene. Che va e viene. In Sicilia c'è traffico. C'è molto traffico. No, io sono fermo. Sono dentro la macchina. Pensa che sono in un compleanno, ho lasciato tutti, sono dentro la macchina e sto parlando. Quindi fuori c'è un po' di chiasso. Ecco. Senti, vogliamo far ascoltare già qualcosa di tuo? Sì, perché no? Io ho scelto, se tu sei d'accordo, ovviamente, casomai sì, me lo dici tu. D'accordissimo. Ho scelto la canzone che ti rappresenta un po', insomma, quella che tutti conoscono, che stai portando in giro, soprattutto nei palcoscenici, e anche a livello YouTube mi sembra che sia molto scarica. Sì, sentita. Hai già capito qual è? Sì. Questa... c'è. Dimmi tu. L'audizione. Questa però è una canzone che tu avevi scritto qualche anno fa. Sì, ho scritto già nel primo mio album, di fatto prende il nome dell'album, l'ho rifatta, l'ho rivisitata e l'ho messa già nel mio CD perché insomma mi rappresenta moltissimo e credo che il pubblico gradisca. Allora io direi di ascoltare e poi ritorneremo, ritorneremo qui, ok? Va benissimo, ok. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Benissimo. Questo è un pezzo apripista, possiamo chiamarlo così, fa muovere la gente, fondi giustamente, come tu hai detto, certi retaggi, tra virgolette, di musica classica con altri riferimenti più moderni, più attuali. Sì, hai detto benissimo. Praticamente questo brano è un apripista, come hai detto tu. Difatti, nella realtà, quando io vado a suonare nei concerti, c'è la gente non può fare a meno che ballare. Muoversi, esatto. È muoversi, è bello che carica. Io ti ho visto suonando dal vivo questo pezzo, sia al concerto, mega concerto di quella serata, sì. Di cui mi avete invitato, insomma, io sono stato orgoglioso e fiero di essere davanti a 1800 grazie, persone. Grazie a te. E... anche tu eri protagonista quella sera, eh? Sì, ma okay. Ne parliamo dopo del protagonista. Parliamo dopo, ok. Allora, dicevo, ti ho visto suonare questa canzone in un matrimonio. Sì. La gente veramente era attenta, tu passavi in mezzo ai tavoli con questo violino, splendida, veramente l'immagine. Piace proprio tantissimo questa canzone. Sì, questa canzone praticamente, come tu hai sentito, diciamo, ti dà una certa carica, inizia un po', diciamo, la presentazione, poi dopo, diciamo, scarica tutto, diciamo, l'entusiasmo verso la fine con l'entrata di tutta l'orchestra, ma molto bella, molto carica, diciamo, un po' mi rappresenta, io sono così, non sto mai fermo, ho bisogno di muovermi, di fare, e quindi cerco sempre nella musica di iniziarla sempre in una certa maniera, più calma, più tranquilla, per poi scaricare il tutto verso la fine, quindi dare il tutto, il massimo verso la fine, e quindi penso di aver fatto questo in questo brano. L'idea era partita così, Giuseppe, inizialmente, avevi così il concetto, era quello di sviluppare il discorso musicale in questa maniera? Sì, al 100%. Perfettamente, credo di esserci riuscito, sì, insomma, quello che arriva alla gente penso che sia questo. Infatti la gente rimane stupita soprattutto alla fine del brano, che insomma scarica un po' tutto l'entusiasmo e tutta l'emozione verso la fine del brano. Dobbiamo ricordare che questi brani sono editi dalla Gallery Records, mm-hmm. e saranno distribuiti a partire da settembre su tutti i network mondiali dalla Toonovation, quindi è molto importante dire questo. Certo. E quindi è una specie di anteprima che abbiamo noi. Sì, ma voi avete l'esclusiva, non l'anteprima. L'esclusiva, grazie a te comunque, così. Grazie sempre. Grazie, ma figurati. Sei una splendida persona, Giuseppe. Grazie. Ho trovato... ci conosciamo da poco tempo, ma è come se ci conoscessimo chissà da quanto tempo. Perché guarda, subito si è instaurato un rapporto bello di fratellanza e di amicizia. E questo mi fa molto piacere. È reciproca la cosa, comunque. Grazie. Ti ho trovato veramente una splendida persona, ma indipendentemente dalla vicinanza che hai avuto nei miei confronti quei giorni che sono stato lì, ma proprio per l'animo che tu hai, quello che tu sei, insomma. Grazie, gentilissimo. Mi fa onore. Ma l'ho anche scritto comunque in qualche parte su Facebook, che io devo solo ringraziare voi, tu, Gaspare, la Mirella, la Francesca e quant'altri, insomma. Allora, tornando al discorso, Giuseppe, sì. Questo disco io l'ho trovato di varie sfaccettature. Sì, difatti, come ti ho detto poco fa, ci sono nove brani diversi, tutti totalmente diversi, con generi diversi, dal classico, al country, all'irlandese, al twist, un po' di tutto, anche al Gibbs, c'è un po' di tutto, insomma è variopinto, come la mia vita, io sono così, sono come... sono a 360 gradi, quindi se stamattina mi alzo, voglio fare un genere musicale, cerco insomma di documentarmi e di fare il possibile per creare quella che voglio creare in quel momento, quindi sono così, alla giornata. Giuseppe, Agostino ti ha visto, però per i nostri ascoltatori che non ti hanno ancora visto, almeno quelli non siciliani o quelli qui di Padova, sì. Lo spettacolo tuo come funziona, come lo sviluppi sul palcoscenico? Io cerco insomma di rappresentare. C'è la linea disturbatissima stasera. Sì, c'è una. E anche io sento un ronzio che poi viene. Rappresentare. Giuseppe, aspetta, che si sente malissimo. Forse è la macchina che è troppo schermata, forse, che ne so. Può essere. Sentiamo. Meglio. No, ti sento malissimo, ti sento veramente disturbatissimo. Adesso mi sento bene. Adesso va bene. Adesso mi senti bene? Sì, sì, adesso okay, sì. Stavo dicendo, sì, cerco, cioè, sul palcoscenico, sì, come lo sviluppi lo spettacolo? Ma cerco, diciamo, di rappresentare al meglio ciò che riesco a fare, diciamo, attraverso la musica, attraverso le mie canzoni, attraverso ciò che io scrivo. Ma la cosa principale è quella di cercare di emozionarmi io prima di emozionare loro. Certo. Cioè io dico sempre anche ai miei allievi, se non riuscite a emozionarvi quando suonate, non riuscirete mai a emozionare anche la gente. Quindi cercare sempre di avere il battito, come si dice, quel battito frequente che si ha nel cuore, per cercare, diciamo, di trasferire quell'emozione attraverso il suono alla gente. È come quando io sto parlando con te, in questo momento sono emozionato, quindi cerco, insomma, con la mia voce di trasferirti questa emozione che sto vivendo. Certo, certo, è giusto che sia così. Un musicista deve essere così. Deve essere sempre emozionato. Deve essere sempre emozionato, come se fosse la prima volta. Esatto. Perché l'emozione, il pubblico la recepisce in senso positivo, assolutamente. Sì, e io credo che ci riesco, perché la gente poi mi dice, sai, quel brano mi ha emozionato. Quindi vuol dire che in quel momento ho trasferito delle cose meravigliose alla gente, e questo mi fa piacere, che è quello che voglio, d'altronde. Certo. Giuseppe, ne ascoltiamo un'altra. Ok. Cosa dici? O vuoi parlare? No, vai, musica, meglio musica, dai. Parlare meno e far ascoltare musica alla gente. Io voglio sentirti invece parlare, e anche per far conoscere chi sei, insomma, agli ascoltatori. La gente che non mi conosce. Adesso vado controcorrente, Giuseppe, perché ti spiazzo, non erano nei nostri accordi. Ma, va bene. Ma siccome hai una persona che vive assieme a te splendida, tua moglie, io grazie. So che hai fatto questa canzone proprio per lei. Sì, sì, sì, per lei. Si chiama Francesca. Bravissimo. Ce la vuoi raccontare questa canzone? Cosa ti ha ispirato? Ma questa canzone dice tutta la canzone, quindi io non direi nulla. Facciamo ascoltare la canzone, che secondo me la descrizione è ben dettagliata, quindi la gente capirà, secondo me. E ok? Allora ascoltiamo? Ok, vai. Francesca. A dopo. Carnevale, mi trovavo ad una festa, tanta gente che ballava come era allegri. Ero lì con i miei amici, ma col cuore chissà dov'ero. Mi piaceva guardare gli occhi delle ragazze. Camminando fra la gente, un sorriso mi abbagliò. Mi fermai incantato, sembrava un angelo. Mi guardava come se aspettasse proprio me. Sentivo bussare al mio cuore, credo sia l'amore. Com'è bello stare con te, dai un senso ai giorni miei. Col sorriso porti via le mie malinconie. Luce tu sei nei momenti più tristi, un angelo che vive solo per me, per me, per me, oh amore. Non parlare, lascia che parlino gli occhi. In un mondo come questo c'è bisogno di qualcuno che ti pensa, ti ama, ti dice ti voglio bene. come dolce sentirselo dire dalla donna che sogni da sempre. Naso naso, ciglia ciglia, con la dolce Francesca. Tu lo sai, io vorrei stare sempre accanto a te, per amarti, sognarti, sentirti ancora più mia, perché io e te siamo come il cielo e le stelle, uniti per sempre in un mondo di sogni. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 22.03, siamo in diretta con Giuseppe Di Giovanni, questa è la voce di Agostino Spolaore che assieme a Maurizio Calzavara sta cercando di farvi conoscere questo artista, questo musicista, questo violinista che all'età di 7 anni... Non lo dire. Hai cominciato prestissimo comunque. Di 15 anni ha iniziato a scrivere musica e ora si trova 18 anni. Ti sento malissimo Giuseppe. Mi senti? Mi senti adesso? Sì, ti sento malissimo. Sì, ok. Stavo dicendo che ha iniziato all'età di 15 anni a scrivere musica, ora ne ha 18 e quindi... Benissimo, sei giovanissimo allora. Giovanissimo. Comunque, vi è piaciuta Francesca? Sì, certamente. Ecco, mia moglie ha gradito sicuramente, perché è felicissima. Quando la sente dice, ma mio marito mi vuole bene. È bello. Altrimenti non ti vuole bene. Comunque ero in crociera, è il giovane quello che combina. Quindi è una sera di carnevale, quindi certo. Immaginati. Dai, Giuseppe, lasciamo stare, dai. Posso dimmi. Farti una domanda? Anche due, dimmi tutto. Ti ci vedi più come musicista, violinista o come cantante? Ma guarda, nell'altro. Nel senso che mi vedo, non so, io cerco diciamo di rappresentare ciò che in quel momento mi va di fare, cioè io sono un tipo libero, almeno nella musica voglio essere libero, nella vita forse no, perché siamo legati un po' da vincoli e da false libertà, comunque non entriamo in merito a questo, però cerco di essere più libero possibile, so di avere una bella voce, sono tantissime, tanti che hanno una voce molto più bella della mia, però cerco di essere diciamo nella media, di non essere diciamo stonato, insomma di... che insomma può dare delle emozioni, c'è a chi li dà giustamente e c'è a chi no, però mi vedo più come musicista, questo sicuramente come violinista, però a volte mi viene questo diciamo questa voglia di cantare qualche canzone e senza nulla togliere a Jovanotti, lo fa lui, lo posso fare anch'io, penso. Dai, senza togliere nulla a grande Jovanotti, però penso che se lo fa a lui lo posso fare anch'io e forse anche altri. Scherziamo, dai. Comunque non ho una bella voce senza dubbio, però cerco di emozionare e spero di far emozionare qualcuno, magari qualcuno, dai. Okay. Cerco di essere modesto, con i piedi per terra. Lo sai, lo sai. sei, Giuseppe, da quello che ti conosco io lo sei, modesto. Ti ringrazio. Ti ringrazio. E poi sei molto conosciuto nella zona, perché... Tu hai notato, no? Hai notato che, insomma, mi vogliono bene qua, quindi vuol dire che qualcosa darò, qualche emozione arriva. Ma poi, poi sei anche molto, molto richiesto come arrangiatore. Sì, questo sì, specialmente dalle ragazze, non so perché, forse perché... le ragazze, non lo so il perché, questo dobbiamo chiedere a loro. Hai partecipato, tu Agostino hai citato l'arrangiatore, hai partecipato a numerosi dischi, hai dato una mano dal punto di vista contributivo del violino e non soltanto del violino, vero Giuseppe? Sì, varie, diciamo in vari dischi di gente... meno famosa, insomma, con voglia, diciamo, di diventarlo, come violinista e anche come arrangiatore, e tra cui citiamo la bellissima Mirella Regina, che, diciamo, nel suo singolo ho partecipato come arrangiatore, quindi ho curato tutta la parte arrangiamenti, violini, chitarra e quant'altro. Ho e credo che tu la conosca bene, diciamo, sì, anche il brano perché... che... Anche perché faccio parte anch'io di questo progetto in un certa maniera. Ecco, sì. Allora lo puoi dire ora, dai. Sì, lo possiamo dire. Stiamo parlando, lo puoi dire. Va bene, che... parliamo di quella sensazione, di quella serata, di quella canzone, cosa dici? Sì. Allora, questa canzone, vabbè, a parte che lo potresti dire tu, io ti dico solo l'emozione che ho provato nel momento... L'emozione che ho provato da parte del quando lo speaker mi ha chiamato sul palco a parlare, a dire le parole che ho scritto io per questa cantante, questa Mirella Regina, in questo suo singolo I Believe in Love. E l'emozione poi fortissima è stata al momento della fine, quando io ho finito di parlare, che la Mirella mi è venuta vicino, ci siamo salutati, ci siamo dati un abbraccio e poi ho salutato te e ho lasciato il palco lì per voi due, perché tu suonavi il violino e lei appunto cantava questa canzone. È stato un momento molto emozionante per me, e io veramente ne vado fiero di questo ricordo bellissimo lì, poi giù ad Alcamo, dove nessuno mi conosceva, ma in realtà mi conoscevano tutti. Perché... Sì, ma già ti conoscevano tutti perché già conoscevano il singolo di Mirella, quindi conoscevano anche la poesia che hai scritto tu, e diciamo che hai aperto il brano della Mirella in una maniera molto, molto bella, simpatica e emozionante. Infatti nel modo di recitare quella bellissima, meravigliosa poesia che hai scritto tu. E magari più tardi la facciamo ascoltare. Perché no? Anche perché io volevo far ascoltare un'altra canzone sempre tua con Mirella, se tu sei d'accordo. Sì, va benissimo. Tanto comandi tu, dai. No, e metti tu i dischi, che ti devo dire, dai, sto scherzando. tranquillo. Comunque... Qual è? Io ho scelto Prey, se tu sei d'accordo. Bellissimo. O vuoi che ascoltiamo prima l'ape? No, fai tu, non c'è problema, fai tu. Tranquillo, ok, va bene Prey. Allora, ci ascoltiamo questa? Sì, benissimo. Come mai l'hai messa come traccia numero 8? C'è un motivo? Ma diciamo che non c'è un motivo particolare, però nel selezionare i brani ci siamo conservati quello che è più allegro verso, diciamo, verso la fine, per dare, diciamo, perché prima di questo mi pare che c'è Sicily Shardas, che è un pezzo, non è molto allegro, ma diciamo è solo strumentale, quindi abbiamo lasciato questa canzone della Mirella verso la fine, in maniera tale da dare un cossone a chi ascolta i 9 brani del CD di Giuseppe Di Giovanni, solo per questo. Io sto saltando da una parte all'altra del disco, Giuseppe. No, ma fa bene. È giusto per dare un'infarinata, insomma. Un'idea di quello che c'è dentro. Allora, ci ascoltiamo questo intanto, va bene? Ok, a dopo. Allora, a dopo. Giuseppe Di Giovanni assieme a Mirella Regina in questa Pray. A colui che ti guarderà, il suo cuore aprirà. Una stella del cielo, io stasera ho qui. La sua luce mi avvolgerà e mi proteggerà. Una rosa ti donerò, aprirò il tuo cuore e dal mondo io lo dirò. Viva il nostro amore. siamo qui, è un mistero per tutti noi e capire non puoi. L'importante è credere che c'è vita lassù, troverai di meglio se fai del bene qua giù. Radio Sera. Blu Radio Sera. Pronto Giuseppe, ci sei? Sì, ci sono. Questa contrapposizione, questo violino, questa tromba, questo modo gioioso, giocoso di correre anche, di correre velocemente sulle note del pentagramma, non per far divertire, per dare spensieratezza al pezzo. Cosa dici Giuseppe? Che è favoloso. Sai cosa mi dice la gente quando io suono questo brano? Dice, ma il violino fa pure queste cose. Cioè, pensava la gente che il violino facesse solo cose classiche, diciamo musica classica. Diciamo, il violino può spaziare in qualsiasi genere, dal blues al jazz, al country, al rock and roll, certo. Qualsiasi cosa. Cioè, quindi, diciamo, bisogna anche abituare l'orecchio della gente a vivere delle emozioni con generi diversi. E credo che se non ci sono riuscito ora, spero di riuscirci con il prossimo album che è già, diciamo, in lavorazione praticamente. Sì, in lavorazione. Ho capito. Sì. Non mi fermo qui, sentirete parlare di me ancora per un po' di tempo. Bene. Anche perché mi piace fare musica, quindi mi diverto, mi emoziono e sono il primo io a divertirmi di questa musica che creo, quindi spero di riuscire a far divertire e a far emozionare anche gli altri. Tu hai parlato che una scuola ci sono degli allievi praticamente. Sì, ho degli allievi che, diciamo, sono affascinati da questo strumento meraviglioso che è il violino, però c'è chi dura un anno, c'è chi dura due anni, c'è chi resiste, perché il violino è uno strumento molto ma molto difficile. Non è come il pianoforte, che bene o male, diciamo, già nei primi mesi riesce a creare qualche musica bella, orecchiabile. Col violino ci vogliono un po' di anni prima di riuscire a fare questo. Quindi non è facile l'approccio, e solo chi veramente ama questo strumento riesce poi nella vita a fare qualcosa, secondo me. Certo, sono d'accordo. Mi dicevi infatti che i tuoi allievi, quando arrivano lì, partono tutti con la voglia di fare violino, ma dopo un po' si stancano. Dopo un po' si stancano, però ti dico un'altra cosa, i miei allievi sono ragazze dai 18 ai 22 anni, non capisco neanche il perché. Cioè, tutte le ragazzine dai 18 ai 22 anni sono innamorate e affascinate da questo strumento, però ahimè durano poco, cioè nel giro di 3-4 mesi o 6 mesi o quello che sia si stancano facilmente, quindi perché pensano che, visto suonato da me, è facile, in realtà poi non lo è. Cioè, in realtà, quando devono cominciare a studiare, a capire, insomma, che lo strumento ha bisogno di tempo, durante la giornata devi dedicargli parecchio tempo, allora si stancano facilmente e poi mollano tutto. Quante ore suoni tu il violino al giorno? Io sempre. Sempre? Cioè, è una domanda che mi fanno spesso tanti e dico sempre, perché io dedico al violino, al canto e alla composizione tutto il tempo che ho. Cioè, se ho 7 ore, 7 ore, se ne ho 3, 3, quello che riesco a ritagliarmi durante la giornata. Sappi che ho famiglia, sappi che ho un lavoro, sappi che, insomma, sono impegnatissimo. però ripeto, cerco di ritagliarmi il tempo perché adoro questo strumento e mi piace creare e suonare la musica. Cioè esercitassi sempre allora Giuseppe sul violino? C'è sempre, fare. Sempre, mai manca. Allora ti racconto una storiella, sì, che mi raccontava il mio maestro quando ero io un ragazzino, mi diceva: se non studi per un giorno non se ne accorge nessuno, se non studi per 3 giorni se ne accorge il tuo maestro, sì, se non studi per 1 settimana se ne accorgono tutti. Quindi bisogna stare sempre con lo strumento in mano, se si ama, se non lo si ama è meglio cambiare mestiere, ce ne sono tanti, no? Certo, hai ragione, questa è una cosa giustissima che hai detto. A proposito del violino, gli archi sono molto, noi facciamo anche musica rock e certe movenze degli archi, certi suoni degli archi nella musica rock danno determinate sensazioni. E recentemente abbiamo fatto un concorso, un 2-3, vero Agostino? Certo. E ci hanno vinto una band, un gruppo di ragazze che suonavano gli archi, suonavano il violino e il violoncello, una cosa meravigliosa. Quindi dà una certa sensazione anche sul palco, al pubblico, stupendo, il pubblico lo sente. Ed è anche stupendo il connubio fra musica rock e musica, diciamo, creata dagli strumenti ad arco, certo, che per lo più, diciamo, dà l'impressione che sia classica, ma come ti ripeto può fare l'arco, cioè gli strumenti ad arco possono fare qualsiasi altro tipo. Sono di d'accordo musica con te. Ed è molto difficile sposare i due strumenti insieme, cioè gli strumenti elettrici con, sì, gli strumenti acustici, è molto difficile, diciamo, metterli insieme e creare una sonorità, diciamo, che possa un po' emergere rispetto a uno strumento, diciamo, elettrico, perché è molto più semplice farlo emergere, no? Tu che sei uno studioso, Giuseppe, tu lo ricordi sicuramente Jean-Luc Ponty. Sì. Quello era un violinista elettrico, ma strepitoso, passava dal jazz alla musica classica al soul, faceva un po' di tutto, il blues, era bravissimo. Sì, sì. Tu parli di Ponty, ho sentito bene? Sì, Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty. Esattamente. Allievo di Grappelli. Ah, questo non lo sapevo. Ecco. Il grande Grappelli, Stefan Grappelli, diciamo, musica jazz, diciamo, è il papà della musica jazz per violino, parliamo. Quindi è il mio idolo, cioè è stato il mio idolo, lo è sempre, è morto, ma lo è stato e lo sarà sempre, cioè io, è stata la mia fonte ispiratrice, quindi spesso lo ascolto e mi dà sempre qualcosa. E siccome noi siamo come le spugne, noi musicisti assorbiamo, e quindi magari nelle tue composizioni poi esce fuori un qualcosa che ha a che fare con lui, perché, diciamo, come capita anche altri strumentisti e altri compositori, diciamo, di assorbire varie sonorità giornaliere, e poi fuori magari nella tua composizione esce un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, cioè poi te ne rendi conto magari nell'elaborazione del brano. Certo, è chiaro, ma è una cosa positiva secondo me. Sì, decisamente. Ma bisogna fare ciò che puoi fare, certo. Quindi cercare di coltivare e difendere con le unghie ciò che, diciamo, una persona ama, io credo, no? Certo. È la vita. Difatti è la vita, lo dico sempre. È la vita. La vita. Giuseppe, ti porto i saluti di un collaboratore tuo, tra virgolette. Penso, spero, credo che avrete modo di collaborare anche in futuro insieme. Forse hai già capito, si chiama Enrico Zulianti, sta ascoltando dalle vacanze, sì, è al mare, ma ci sta ascoltando da Bibione. Sì, mi ha fatto tanto in bocca al lupo su internet, ho letto, non lo conosco, ma sono sicuro che è un grande amico e lo sarà ben presto. Magari avremo modo di vederci e di conoscerci meglio. Sì, è un grande paroliere, veramente. E oltre ad essere un grande amico per me, insomma. E quindi ti sta ascoltando, ti porta i suoi saluti. Grazie. Abbiamo appena mandato mille. Un messaggio. Va grazie. Bene, Giuseppe, noi ci salutiamo qui. Ok. Facciamo ascoltare. Agostino, sì. Facciamo ascoltare l'ultima canzone, che è L'Ape. Sì, prima di congedarci ti voglio abbracciare, ti ringrazio, grazie ai radioascoltatori, grazie, scusate se sono stato, diciamo, se non sono stato gradito, spero di sì, e grazie per l'opportunità che mi hai dato, a te, alla redazione, grazie al tuo collaboratore, grazie a tutti, insomma, saluti dalla Sicilia, vi abbraccio, tu sai quanto siamo calorosi, cerchiamo subito di mettere a proprio agio gli ospiti, e lo sai benissimo, no? Allora, prima di piangere, ti devo chiedere i tuoi dati, cioè nel senso dove si trova il disco, il tuo sito e via discorrendo, i tuoi contatti anche su internet, eccetera, eccetera. E allora, mi potete scrivere all'indirizzo mail giuseppedigiovanni@alice.it e ben presto su iTunes e tutti i network mondiali troverete i miei brani distribuiti dalla Gallery Records. Hai un sito tuo o Facebook? No, sito attualmente no, su Facebook mi trovate, Giuseppe Di Giovanni, mi trovate benissimo. Quindi se qualcuno vuole qualche collaborazione tu sei disponibile. A disposizione, sono a disposizione per tutti. Va bene. Grazie Giuseppe. Ti abbraccio, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Giuseppe, noi ci salutiamo con la canzone forse più ironica, tra virgolette. L'ape. Dal punto di vista musicale. Bella, bellissima. Grazie Agostino per la possibilità che mi hai dato. Grazie. Niente, grazie ti a abbraccio. Te. Ciao a tutti. Un abbraccio a te, abbracciami tutti gli amici di Alcamo e dintorni, insomma. Senz'altro. Ciao, grazie, ciao, Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Il mio piccolo omaggio agli amici di Alcamo, a tutti gli amici che ho conosciuto in quella splendida cittadina e non solo, i siciliani in generale, questa canzone che io ho voluto scrivere qualcosina per questa cantante che veramente è nel mio cuore, è bravissima, mi piace tantissimo, si chiama Mirella Regina. Ascolto l'espressione del mio cuore e della mia anima che raccontano di te. Ascolto le parole che mi portano a te. Ascolto la melodia che mi fa credere in te. Apro le braccia, ti accolgo e mi immagino di darti tutto il mio amore. Stammi vicina, musica, come hai sempre fatto nella mia vita. Voglio respirare in te, lasciarmi travolgere dalle emozioni che mi dai. accompagnami sempre nel mio percorso, perché non potrò mai dimenticare che sei la mia grande passione, la mia grande gioia, sei la mia musica. Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentita.